Qui Radio Onda Rossa 87.9, iniziamo la trasmissione come tutti i lunedì di Normale Follia. Naturalmente, come lo scorso lunedì ero riuscita a dedicare appunto al nostro argomento, che era sempre il libro di Bollea sulle madri che non sbagliano mai, soltanto una decina di minuti, perché avevamo parlato della preparazione, degli impegni, del significato della manifestazione del 15. Chiaramente oggi non è che non possiamo parlare del dopo 15, visto che logicamente la cosa, insomma, veramente penso l'abbiamo vissuta tutti in prima persona, ci stavamo tutti dentro, specialmente chi come noi poi anche l'aveva preparata con tanto passione. Io faccio appunto una dovuta premessa, che veramente dopo che sono riuscita a tornare a casa abbastanza tardi, appunto sabato, mi sono rifiutata per domenica di mettermi a sentire radio e telegiornale, lo dico subito, quindi non ho sentito neanche Radio Onda Rossa, però mi sembra, che ne so, c'ho proprio un sacco di voglia di poter dire almeno quello che penso io, quello che naturalmente è uscito fuori da quella che è stata la mia esperienza. E non vado a raccontare i fatti, perché appunto sono sicura che sia da sabato sera fino a tutta domenica mattina, sera, pomeriggio, chissà ancora per quanto, quelle che sono state naturalmente, come sono andati i fatti, dove sono stati fatti i primi botti, dove sono stati fatti i secondi, i terzi, eccetera, la carica delle polizia quando è arrivata, come sono riusciti a spaccare il corteo, bla bla bla, l'abbiamo visti tutti naturalmente e l'avrete viste tutte rispetto naturalmente alle informazioni date da tutti i telegiornali, radio, blog, eccetera eccetera. A me quello che mi interessa è invece dire, anche da un punto di vista emozionale proprio, no? Perché penso che sia fondamentale riuscire a parlare di quello che poi è stato vissuto da molti di noi dentro questo benedetto corteo e di come effettivamente uno, non lo so, se rimaniamo in tema di psichiatria, potrebbe naturalmente anche dare dei significati appunto particolarmente significativi da un punto di vista di agire, e quindi non solo collettivo ma anche molto individuale, ma non soltanto questo. Io penso appunto che almeno la cosa che mi sono sentita anche di urlare ad alta voce, io ho parlato anche per il microfono, non ho avuto problema di dire le mie idee naturalmente durante la manifestazione, era quella naturalmente di non sentire rispettato quelli che erano le diverse idee, le diverse posizioni, diversi atteggiamenti delle varie componenti del corteo. Non sto facendo soltanto una cosa numerica, anche se poi quella che era la grandiosità della manifestazione, l'abbiamo visto alla partenza da Piazza Esedera, e quanta ancora gente, quando già succedevano gli scazzi, gli scontri, le cariche della polizia, eccetera, stava ancora uscendo da Piazza Esedera. Veramente era una fiumana umana di migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di persone, forse la manifestazione più grossa a livello europeo che si era riuscita a mettere in piedi. Quindi una manifestazione molto vissuta e molto sentita da diverse persone con diverse idee, ma che tutte dovevano essere rispettate, portate fino in fondo, gli si doveva dare lo spazio, bisognava naturalmente capire quelle che erano naturalmente le voglie e le indicazioni. Però una cosa che a me mi piace sottolineare: il problema non era legato solo alla piazza del 15 ottobre, ma era quello che naturalmente questo movimento di indignati, che può raccogliere, può dire tutto e non può dire niente, ma più che altro veramente le migliaia di donne, di lavoratori, di disoccupati, di precari, di casalinghe, di vecchietti, di gente che non ha più salute e che non ha più diritti, e chi più ne ha più ne metta, extracomunitari, senza casa e via di seguito, volevano naturalmente anche rendersi conto, guardasse in faccia, poté dire vabbè, ma il 16, il 17, il 22 di ottobre, poi ancora dopo, che caspita facciamo rispetto a quelle che sono delle condizioni ormai di invivibilità, di impossibilità di andare avanti, di sudditanza appunto da quelli che sono i poteri economici e le violenze reali che ti vengono fatte appunto dal padronato e da tutti i politici e dalle varie banche a livello mondiale, nazionale, internazionale, eccetera eccetera. Ecco, questo per me è fondamentale e focale, come era importante prima del 15, proprio perché anche da questa nostra trasmissione avevamo detto non è certo il 15 il momento d'arrivo, ma probabilmente e sicuramente deve essere invece un discorso di partenza su tutti gli obiettivi che ancora dobbiamo concretizzare, perché stare in piazza un giorno in qualsiasi modo ci sta, non è certo quello che determina la cosa focale. A me questo è che mi ha dato molto fastidio, che non siamo riusciti né a fare questo, e tanto più quelle che sono state naturalmente le cronache eccetera sono state appunto soltanto la rivisitazione di quelle che erano azioni di una minoranza del corteo e della polizia. Questo è stato l'obiettivo poi di ciò che è stato mandato come unica prospettiva, come unica caratteristica, come unica idea, come unica ricchezza di quella mega, meravigliosa, immensa fiumana di gente che invece aveva molte altre cose da dire, molte altre cose da fare, molte altre cose naturalmente da condividere, da prospettare, da organizzare. E questo sì, secondo me, a me mi manda in puzza, perché l'abbiamo visto tutti che poi le cariche della polizia sono arrivate quando naturalmente vicino a San Giovanni non volevano neanche loro farci prendere la piazza, stare a San Giovanni naturalmente con quella fiumana di gente, quando il corteo appunto preso ed è stato mandato verso la piramide, quindi appunto allontanato e reso impossibile anche la possibilità di tutta quella fiumana di gente di potesse ritrovare effettivamente e realmente per quello che era la voglia di dare continuità a questo 15, ricchezza, e, ripeto, idee, contenute, prospettive, energie e via di seguito. Quindi è chiaro che l'abbiamo visto tutti, poi dopo come sono andate le cose abbiamo visto, e io mi sono incazzata frascica quando già abbiamo girato dopo via Cavour e dopo già le prime macchine bruciate, che veramente potevano far rischiare enormemente a noi del corteo che passavamo vicino, perché non è che potevamo, che ne so, bypassare via Cavour, oppure ancora peggio quando abbiamo girato poi da dopo il Colosseo, pensare che qualcuno mi può fermare il corteo perché se devono mettere a fare i cordoni, ma di che? Ma io devo essere libera, devo essere possibilitata, devo essere garantita e mi voglio garantire io stessa per poter fare quello che decido di fare e che gestisco di portare avanti. Quindi era questo che però appunto io non me la sentivo di non ripetere anche da una trasmissione come Normale Follia, che non è che è fatta appunto per discutere della manifestazione del 15, ma che è sempre stato uno strumento, almeno per noi compagne, sia di Normale Follia che del COBAS e del Policlinico, di poter naturalmente articolare anche le nostre proposte, le nostre iniziative, le nostre voglie, eccetera, eccetera. Quindi è questo l'aspetto che io voglio sottolineare con estrema emozione, perché veramente c'era anche tanta passione in ognuno di noi, ed è giusto che sia così, perché veramente una di 60 anni che continua a stare in piazza, continua a muoversi, a chiedere, a credere, ma anche a farsi l'autocritica, perché io, mentre appunto da una parte litigavo con chi non mi permetteva di fare il mio corteo, di poter gestire le mie idee, il mio obiettivo, che era, oddio che schifo, facciamo una passeggiata, non è questione di chi è più bravo, più bello e che si pone più obiettivi, perché sennò uno potrebbe dire che è bello invece prendere di punta la macchina o quell'altro. Ecco, a me non me ne frega di mettermi a fare la sfida, perché questo è molto adolescenziale e molto infantile. Io non voglio fare la sfida con nessuno, io voglio soltanto determinare spazi di idee e di libertà che andavano e vanno garantiti, però sicuramente come adulto io mi creo delle grosse autocritiche, no? Noi lavoriamo appunto nel campo psichiatrico, specialmente con tutto il discorso degli adolescenti, ma anche gli adolescenti cosiddetti normali, come quelli naturalmente che poi arrivano nei nostri reparti. Però ci domandiamo, indubbiamente, se io non sono riuscita come adulto, non io Graziella chiaramente, ma io come realtà politica e nel mio specifico come COBAS, nella mia multiplicità come altre rappresentazioni di gruppi, partiti e chi più ne ha più, associazioni, centri sociali e chi più ne ha più ne metta, non siamo riusciti forse fino in fondo, ma non oggi, ormai da parecchi anni, accogliere quelli che possono essere naturalmente le prospettive di voglia di cambiamento. Io penso che anche all'interno di quelli che possono essere i cosiddetti adolescenti, perché poi naturalmente anche lì tutto il gioco dei giornali che ti dicono ci sono quasi tutti minorenni eccetera eccetera, però secondo me quando si parla di adolescenza io parlo anche dei quarantenni adolescenti, quindi non è che sto facendo una questione d'età, capitemi, però se effettivamente uno non riesce all'età, appunto, che è un'età di passaggio verso l'adultità che non tutti hanno fatto e non so quando faranno, se la faranno, in un adolescente è sacrosanto che ancora non ci sia questo passaggio verso l'adultità, in un adulto indubbiamente è un motivo naturalmente di ritardo, diciamocelo, perché è un passaggio che va fatto poi a un certo punto della nostra vita, no? Ognuno di noi l'ha fatto, si è guardato indietro, è stato capace di verificare, di passare dentro determinate situazioni, di ripetere. Io se dovessi tornare indietro farei tutto quello che ho fatto allora, perché allora c'aveva un senso, per me c'era un significato, ma se lo dovessi vivere oggi con la mia età, con la mia maturità, quello che ho vissuto agli anni 70, forse farei altre cose e mi articolerei diversamente rispetto alle situazioni. Però ecco quello che io voglio dire. Nel momento in cui appunto c'è questo passaggio inevitabile, c'è questa capacità anche di viversi un aspetto adolescenziale, l'adolescenza è già una scoperta di quella che è una memoria episodica, insomma una memoria che ci permette di fare ricchezza, no? Di quello che è stato il nostro presente, di quello che è il passato che viviamo, però per proiettarsi verso un futuro. Se il passato e il presente rimangono gli unici termini di paragone e non c'è questa possibilità di proiezione verso il futuro, veramente è tragico, è vero, oggi non c'è futuro perché i precari non hanno futuro, i disoccupati non hanno futuro, se si continua naturalmente con questo andazzo non ci sarà futuro per nessuno, se si pensa ancora di delegare sindacati e politicanti e politiconi e partitoni effettivamente nessuno mi rappresenta, sicuramente questo, però è chiaro che l'aspetto di quelle che sono le possibilità di cambiamento io le devo avere, ma proprio dentro di me, ed è un qualcosa che per me è sempre stato vivo, anche quando pensavo di fare la rivoluzione negli anni 60, ma ci pensavo con le idee naturalmente di proiettarmi verso il futuro, perché ero sicura che in quel momento a rivoluzione non ero certo riuscita a concretizzarla. Quindi è fondamentale questa proiezione anche di capacità di sognare, di capacità di pensare, di capacità di scegliere ed essere principalmente anche capaci, almeno fra noi che ci definiamo compagni, che siamo compagni, che ci sentiamo tutti sfruttati, che tutti sappiamo di essere veramente annientati da un macigno megagalattico di antilibertà, di antidemocrazia, di antirispetto, di antiscelta, eccetera, eccetera, di antivita nella sua complessità, che però ci sia questa possibilità anche di comportamenti diversi, di rispetti diversi, insomma. Io veramente, poi è inutile, ho parlato con tanta gente durante il corteo, giovani o vecchi che fossero, ci ho litigato con tanti, mi sono ritrovata anche a difendere alcuni giovani presi di mira casomai soltanto perché ci avevano i tatuaggi eccetera eccetera, quindi più che altro veramente cercando di ritornare a una forma di equilibrio all'interno delle situazioni, però non posso far finta di non aver visto, di pensare che vabbè allora perché quella è una ribellione era giusto che così fosse rappresentata, ma ognuno è libero, noi l'abbiamo fatto tante volte ai tempi nostri eccetera, ma io non ho mai usato casomai un corteo strutturato in un certo modo che diceva chiaramente che voleva fare un'altra cosa per dovermi parare le spalle, perché poi indubbiamente il centro di Roma era super blindato ed era solo quello che gli interessava, la polizia, come gli interessava non farci arrivare a San Giovanni dove le cariche sono state bestiali, inutili, pazzesche, dove ci stava già sotto migliaia e migliaia di, io sono arrivata a piazza prima che arrivassero le cariche a piazza San Giovanni e ci stavano veramente migliaia e migliaia già di persone sotto il palco, addirittura un gruppo di handicappati che sedia a rotelle, che quando hanno cominciato con gli idranti a fare quella carneficina è stata veramente una situazione in cui tu dentro te dici oddio, ma do cazzo, ma che cazzo sta succedendo, ma che cazzo veramente di significato c'ha tutto questo. Quindi secondo me noi dobbiamo, proprio per quello che poi abbiamo visto in piazza, e io penso che molti di chi ci ascolta è stato in primo luogo, ha visto una situazione, io non ho visto un'altra, quell'altro ha vissuto la fine del corteo, io ho visto l'inizio, io stavo dentro il mio spezzone dei Cobas, quell'altro stavano dentro un'altra spezzone, non è quello, il discorso di fondo è il fatto che porca mignotta si è parlato e si sta parlando soltanto naturalmente di quelli che sono stati gli scontri, di quella che è stata la violenza da parte naturalmente da una parte di minoranza del corteo e dalla polizia. Dopodiché loro sono diventati protagonisti di questa manifestazione e tutte le riprese sono state solo su quello e non si è riuscito veramente, ma non solo a far uscire, perché a me mi interessa di uscire sulla televisione, ma non siamo riusciti noi da un punto di vista di momento, di organizzativo, di confronto, di condivisione eccetera, a dire che cazzo dovemo fare dopo, che cazzo famo dopo, che famo la guerriglia urbana 24 ore su 24 per 365 giorni, ma chi cazzo ci segue? O dobbiamo invece all'interno appunto dei quartieri, dei territori, degli ospedali, delle scuole, incominciare a fare un discorso di ripresa, di lotte, di obiettivi piccoli, minimi, che però possono aggregare, una volta che hanno aggregato possono riproporsi naturalmente come un discorso effettivo di partecipazione, perché per esempio noi quando abbiamo fatto la scadenza che è stata martedì al Policlinico, anzi forse l'ho detto pure per radio giovedì scorso, per dare il volantino del 15 con megafoni, con i volantini, con le chiacchiere, un questionario che avevamo preparato per i lavoratori eccetera eccetera eccetera, molta gente veniva là e dicendo firmo, che devo firmare qualcosa, firmo tutto signore, io sono d'accordo con tutto quello che ha detto, e io gli spiegavo che bisognava andare un attimino oltre a sta firmata, capito? Che però non era porca mignotta, potevo dire, io gli ho detto ci vediamo tutti in piazza eccetera. Ma poi, capito, con come è andata la piazza, cazzo, forse gli avrei dovuto dire, che ne so, rivediamo se qua la prossima settimana, forse dateci delle idee pure voi, che cosa possiamo fare insieme, se sei un utente rispetto al caro ticket, rispetto all'impossibilità di aspettare 6 mesi per fare una visita, rispetto a tutte le problematiche da che non trovi in posto letto in ospedale, che stai aspettando 12 ore sopra una barella del pronto soccorso. Quindi partendo anche da obiettivi che secondo me però non è che sono minimi perché so specifici, ma so sicuramente diretti ai bisogni. Noi nel nostro specifico, la signora dentro la scuola, quell'altri dentro l'università dove ormai bisogna essere raccomandati per fare gli esami, non per superarli, ma proprio solo per farli, perché non ci stanno i professori, non ci stanno, non ci sta più un cazzo, è una cosa impressionante. Dentro le scuole i famosi insegnanti di sostegno, per chi ha delle problematiche non soltanto fisiche, oppure il down che casomai si mette col bidello, ma manco i bidelli ci stanno più, però al limite lo gestisci in un modo differente, ma per tutti quei casi da un punto di vista psichiatrico gravi, che hanno bisogno di aiuto, problemi autistici eccetera, ormai c'è più un cazzo, le famiglie sono caricate non soltanto di quello che è il caro vita, ormai l'impossibilità di arrivare al fine del mese, ma anche di tutti i servizi sociali che devono coprire, tra il discorso dell'assistenza agli handicap, il discorso dell'assistenza agli anziani, il discorso appunto della sopravvivenza, il discorso delle case che non ci stanno, i figli disoccupati. E quindi è questo secondo me che noi dobbiamo riuscire ad affrontare le nostre realtà oggettive, perché poi moltissimi dei cosiddetti precari, disoccupati eccetera, sono quelli che lavorano in nero, sono quelli che vivono delle condizioni di 3,50 euro all'ora e dentro le cooperative e subiscono. Noi per niente al Policlinico, prima il Sant'Andrea ce l'ha fatta a far assumere gli esternalizzati eccetera, noi stiamo ancora in piena lotta perché ancora naturalmente dalla parte della Polverini non si vede luce, però queste sono le cose che bisogna riprendere assolutamente in mano per riuscire effettivamente a imporre dei cambiamenti. Noi quando abbiamo cominciato la lotta con gli esternalizzati diciamo questa non è una lotta sindacale, è una lotta politica, perché salimo una montagna, siamo dei topolini che se mettono a salire una montagna, perché tutto va all'opposto, tutto è privatizzato, tutto tende a essere privatizzato e ancora di più sarà privatizzato con l'aria che tira. E porca miseria, allora riprendiamo quelli che sono i nostri obiettivi e le nostre proposte di lotta e di anche coinvolgimento. Io devo coinvolgere la gente, devo riuscire a fare in modo che a quello che è stato licenziato, quello che sta disoccupato, no, non l'incazzato in assoluto, l'indignato così social generico, ma tutti quelli che il problema lo vivono in prima persona, dobbiamo riuscire a ritornare naturalmente ad essere parte attiva di ogni forma naturalmente di contrapposizione, di alternativa, di cambiamento. Ripeto, poi è chiaro che uno fa, che ne so, qualsiasi azione poi diventa, che ne so, come noi quando abbiamo fatto lo sciopero della fame, abbiamo fatto altre forme di lotta di occupazione, eccetera, andavamo sotto la regione a fare le manifestazioni, Poi mica ci duri una vita, gli stessi compagni in Spagna che, da cui è nato l'indignato, sono stati un mese ad occupare la piazza principale di Madrid, era su Barcellona, oddio, quella piazza de Sol, insomma. E è vero, poi dopo è chiaro che tutto deve essere anche intelligente, alcune cose si possono fare in un modo, alcune cose si possono fare in un altro. Poi mi sembra appunto che con tutti i casini che sono sempre successi, guardate in Grecia, ma anche in America, oppure anche in Spagna, eccetera, eccetera, mi sembra che poi il 15 invece a livello nazionale sia stato vissuto da tutti in modo intelligente. Infatti per esempio in Spagna avevano fatto una mega assemblea con tutti quelli che avevano finito il corteo, proprio per dire: che cazzo famo? Che cosa ci inventiamo? Come articoliamo? Naturalmente le altre lotte, che dovranno essere lunghe, continue, costanti, meticolose, veramente, perché quello che ci viene fatto è una goccia cinese, ci viene tagliato tutto e costantemente continueranno a fare questo. Quindi noi dobbiamo avere una dialettica, una possibilità manuale, una possibilità di agire, che però sia effettivamente continuo e costante e che abbia un respiro, perché sennò veramente andiamosene a casa. Se l'unica cosa che posso fare è in una manifestazione il top dei top e lì chiudo i giochi e me so veramente ripresa che cosa? Ma che cazzo me so ripresa? Io è questo che continuo a dire. Ognuno è libero poi di fare quello che gli pare, ed è questa la mancanza che è stata perpetuata nei confronti di centinaia di migliaia di persone da parte di altro numero di 1.000 persone, 2.000 persone. Me frega quanti cazzo erano che volevano fare quello che hanno fatto, ma fondamentalmente tutte le altre migliaia di persone, centinaia, ripeto, migliaia di persone, volevano invece anche confrontasse, vedesse, mettesse d'accordo, capì che quello con cui ci avevo fatto il corteo casomai abitava vicino a me e insieme potevamo fare una proposta all'interno del nostro quartiere per non pagare determinate ingiustizie, per riuscire a ottenere determinati spazi per i nostri figli, per riuscire ad organizzare, ma non dovemmo accollarmi mio padre, mio nonno e tutti i vecchi della famiglia o l'handicappato che purtroppo ha bisogno di essere aiutato. Insomma, ecco, questo io voglio naturalmente sottolinearlo e penso che come al solito mi sono messa a chiacchierare e l'ho fatto, non so, per 10 minuti, quanto era il tempo, mi direbbero e mi muoverebbero le mani per dire che ho superato il tempo stabilito. Mi frega cazzo, questa è la nostra trasmissione. Se qualcuno naturalmente la pensa differentemente, pensa che sono stati usati termini indegni, indecorosi verso quello che succedeva, io direi, ponemo se è stato fatto qualcosa di indegno e di indecoroso rispetto naturalmente a quelli che stavano in piazza e non avevano nessuna intenzione né di farsi spaccare il corteo né di vedere poi lo scontro soltanto con la polizia e né tantomeno appunto di non poter arrivare a San Giovanni, dove c'era una grande voglia di poterci arrivare, ma non per sentirci quanto siamo belli, quanto siamo bravi, abbiamo fatto la nostra passeggiata, ma forse per riuscire a dire qualche altra cosa e andare avanti sulle proposte, sulle iniziative e, ripeto, rispetto alle proiezioni verso un futuro anche immediato, perché io continuo a dire, dentro il nostro posto di lavoro, noi stamattina abbiamo battagliato perché non c'avevamo il personale, perché dobbiamo rompere i coglioni, perché non ci danno i farmaci, perché... quindi è un quotidiano immediato che ci si proietta chiaramente verso il futuro, perché se oggi mi sta succedendo e domani si spera che mi succeda in un modo differente, quindi automaticamente già vado un pochino oltre a quello che è il presente, porca miseria. Quindi questo non può essere elevato. Io penso che levarci la possibilità delle idee, oltre che la possibilità di espressione, di coscienza, di libertà, di contare, di parlare, di dire, eccetera, eccetera, è veramente levarmi le idee, penso che sia la cosa più pazzesca che chiunque possa pensare di poter fare. Non lo farà mai. Anche perché poi quello che volevamo era la voglia di, appunto, di confrontarci, di vedere che non siamo soli, che c'è tanta gente insieme a noi che fa le sue battaglie quotidiane, perché poi sono queste quelle importanti, perché uno può fare, come diceva la compagna, una sfuriata un giorno, non può, diventa un po' lo stesso discorso del voto: vado a votare, ho fatto politica, vado a una manifestazione, ho fatto politica, prendo le firme, che poi tutto va bene, ma per carità di Dio, ci sono varie forme, ma poi quello che è importante è veramente la lotta quotidiana, che è quella più difficile, perché implica fatica, pazienza, idee, un sacco di idee, ma soprattutto confronto, che poi è quello che vogliamo quando facciamo assemblee, quello che vogliamo quando facciamo manifestazioni, vedere che appunto che ci sta insieme a noi, c'è il Notav che non vuole spendere soldi a cacchio dei cane perché giustamente ci me sventrano inutilmente un bel pezzo di terra, a me ce levano un sacco di soldi per una cosa che serve soltanto a qualche padrone. Mi interessa vedere come stanno messi male tutti gli handicappati, tutte le persone che hanno bisogno di sostegno da parte dello Stato e che invece adesso, invece di essere aiutati, peggio ancora, questi stanno con una mano davanti, come si dice a Roma, una di dietro, peggio che mai. Mi interessa per confronto con gli studenti che stanno accatastati in 33 dentro a una classe di liceo. Non è possibile 33 studenti dentro a una classe di liceo, neanche nel dopoguerra penso che sia successa una cosa del genere. Mi interessa sapere quello che dice il pensionato, quello che ci deve andare in pensione e che si vede la sua vita di lavoro sempre più lunga e magari è preoccupato perché dice io mo ce la posso fare pure, ma poi magari che mi succede a me tra qualche anno se io sto male, se devo fare delle visite, ma perché io devo? E poi non tutti i lavori sono lavori che ti permettono di continuare fino a 60-65 anni, perché qua ci scordiamo che c'è gente che lavora per strada, che nelle fabbriche, che lavora sotto il sole, de notte, che solleva fatica, che fa i magazzinieri, infermieri, ma mille tipi di lavoro che non è pensabile che possano essere prolungati fino a 60-65 anni. E così molte realtà, perché poi il bello di quando vai a una manifestazione è quello che poi accanto a te tutte vedi, e quelli di Brescia, e quelli di un paese, e quelli di un altro, chi lotta per un modo, chi lotta per una... È veramente farsi venire tante idee, avere tanto confronto, che è quello di cui poi soprattutto ci abbiamo bisogno. Del nero non ci piace, io forse perché sono antica, forse ho gli stereotipi come dicono i miei figli, ma a me il colore nero non mi piace, perché... C'ho bisogno di colori, di tanti colori, c'ho bisogno d'arcobaleno, c'ho bisogno di tante idee. Allora, se io sono un po' miserella, che c'ho un'idea, magari se sto vicino a lei o a un'altra persona, quell'idea mia miserella diventa un'idea molto più ricca, un'idea che può fare tanti progetti, che può andare sicuramente molto più avanti del San Pietrino tirato a cazzo di cane, che veramente forse non serve a nessuno. No, o poi tirato, ognuno è bello e si tirano le pietre, a me mi frega un cazzo fondamentalmente. Il problema di fondo rimane quello che se io devo mettere in mezzo un corteo di centinaia di migliaia di persone perché devo fare delle azioni, capito, con San Pietrino e con tutto il resto che te pare a te, fra quello che c'è stava in piazza, eccetera, eccetera, non è giusto. Io è questo che dico, l'abbiamo già vissuto a Genova, ed è vero che insomma chi c'è stava a Genova nel 2001 se lo ricorda bene, che cazzo anche lì di sofferenza, per di più noi stavamo io ero di Roma, quindi stavo pure in una realtà che mi muovevo molto meno bene di come mi sono mossa naturalmente sabato, e pensavo naturalmente a tutti gli altri poracci che erano venuti come ero io a Genova ed erano naturalmente stranieri in questa specie di casino bordello inverosimile, indecoroso, perché poi la gente era incazzata perché diceva benissimo, allora vogliamo essere liberi, fate quello che cazzo di fare, ma non rompete i coglioni al corteo. Questo mi sembra una cosa che va sottolineata con molta chiarezza, e non me ne frega un cazzo di pensare che poi se dire una cosa del genere vuol dire non comprendere i giovani, manco per niente. Io con i giovani ci lavoro, li voglio capire, voglio capirmi tutte le colpe mie se ancora non riesco a farmi capire in quelle che sono le prospettive che abbiamo detto fino adesso. Se a un giovane io devo pensare che mi deve crescere un figlio di 13 anni senza manco sogni, manco possibilità di proiezione al futuro, perché non ha futuro, ma io non io vado a dire a uno dei 13 anni e dico campa e credi di non avere futuro, porca mignotta, facciamo di tutto quello che è possibile, immaginabile, ma costruiamocelo questo futuro, cerchiamolo sto picchio di futuro, e insieme sicuramente con tutte le nostre energie, con tutte le nostre lotte, con tutte le nostre forme varie eccetera, ma con il massimo rispetto della libertà e delle scelte, delle idee anche degli altri, si può riuscire a fare questo. E poi non giochiamo, è chiaro che le idee di chi stava in piazza erano idee sicuramente di cambiamento e di trasformazione, non è paragonabile un discorso che sto facendo io con le idee naturalmente dei politicanti o chi fa mafia o chi appunto fa naturalmente attualmente governo. Quello è tutta un'altra storia. E infatti abbiamo visto la grossa alleanza che poi su quelle che sono state queste azioni c'è stata parte della polizia che non gli è sembrato vero riuscire a rompere questo meraviglioso, mega galattico, importantissimo corteo. Perché poi questa è stata la condizione finale della giornata del 15. Quindi a me questo mi fa rodere il culo, questo continuerò a dirlo tranquillamente, e questo non mi può essere imputato come una mancanza di voglia di comprendere quello che c'è oltre a quella che indubbiamente è l'esperienza ormai mia vissuta con il mio passato ricco di una donna di 60 anni che so circa 50, no, 40 anni, diciamo pure di più, 42-43, che fa politica e che sta naturalmente in prima fila non solo dentro i cortei ma poi nelle lotte continue e costanti, se pensate dagli anni 70 all'interno del Policlinico, rivoluzionando anche lì enormemente quelle che erano anche le forme di valutazione politica, perché noi l'abbiamo fatto come assemblea dei lavoratori del Policlinico contro i sindacati, contro i partiti, contro tutti quelli che già negli anni 70 avevano fatto e facevano naturalmente scempio, compresi i partiti di sinistra, fra cui il PC eccetera eccetera, di tutte quelle che erano le lotte non gestite, non controllate, non determinate eccetera da quelle che erano le direttive poi complessive politiche della destra, della sinistra, del centro e chi più ne è più ne metta. Quindi è vero, c'è veramente una profonda pesantezza. Io per questo sono stata veramente male dentro questo corteo, perché non è la prima volta che litigo, non è la prima volta che mi incazzo, non è la prima volta e non sarà l'ultima, però io sono stata profondamente male a pensare che effettivamente non ci sta la ricchezza di potersi riconoscere, capito? Almeno nella voglia di poter pensare di poter fare qualcosa di differente, ecco, questo diverso, capito? Il diverso, porca mignotta, che non è, appunto, è facile dire no, facciamo qualcosa di diverso. Io pure certe volte mi rendo conto che mi ripropongo a vecchie maniere, quindi mi vengono da ripensare agli obiettivi che avevo già portato avanti, che ne so, quando rivedo rinascere le camere a pagamento dentro gli ospedali dico caspita, noi l'altra volta sì, si fa per dire 35 anni fa negli anni 70 l'abbiamo naturalmente combattute facendo i cortei con i lavoratori eccetera eccetera, dicendo che la gente non c'era, la gente di serie A, di serie B, i ticket sugli ambulatori, lì c'erano le mutue e noi abbiamo fatto naturalmente facendo le manifestazioni davanti agli ambulatori, dando i volantini alla gente, dicendo che era giusto che non pagassero i ticket eccetera eccetera. Quindi è chiaro, poi pure a me non è che mi viene in mente chissà quante altre 10.000 altre cose eccetera, ma sicuramente ci saranno, sicuramente nelle menti, come diceva la compagna, no, messe insieme tante idee, usciranno sicuramente le possibilità di dire che cosa fare e poi naturalmente ci si mette a confronto. Però ecco, anche questo discorso della collettività, no, questa parola che ormai non si usa più, ormai c'è l'aspetto individualista, ognuno deve pensare a se stesso, perché questa ormai è la dinamica da 20 anni a questa parte, portata avanti da tutti i partiti, dalle televisioni, dai sindacati eccetera. Pensa solo ai cazzi tuoi, pensate a quelli che sono stati naturalmente dentro i contratti, tutti i livelli naturalmente degli incentivi, dei fuoribusta, dei pagamenti naturalmente di alcune posizioni privilegiate eccetera eccetera, date solo agli amici degli amici, raccomandati e via di seguito. Pensate quello che è la dinamica delle assegnazioni delle case, pensate alla mafia dentro il smaltimento dei rifiuti, pensate a tutto quello che ha potenziato un aspetto individualista contro quella che era una dinamica collettiva, no? E quindi naturalmente dividendoci era logico che era l'unico modo che si poteva riuscire, no, noi a far passare poi da un punto di vista anche psicologico, no, quella che era una logica di appiattimento totale, no? Per cui la gente poi si ritrova a dire vabbè, ma forse se faccio questo inghippetto forse sto un pochino meglio, tiriamo a campare, e così passa un altro po' di tempo. Intanto quello che non ha potuto fare l'inghippetto casca naturalmente in una situazione invece di povertà, di indigenza, di difficoltà eccetera eccetera, e poi quell'altro ancora va avanti un altro po' e quell'altro casca. Quindi ognuno poi a livello individuale, che era un po' come facevano appunto e come stanno facendo e come continueranno a fare con i contatti precari, che naturalmente vedono naturalmente assunti, oppure coi contratti individuali come vogliono far passare e ormai passeranno naturalmente all'interno del pubblico impiego, in cui logicamente non ci sarà più un contratto nazionale come è passato dentro i metalmeccanici. Ormai non ci si parla più di contratti nazionali in cui si devono seguire delle leggi, delle regole che servono per tutti, e su quelli naturalmente la gente si può contrapporre, può fare proposte alternative, può dire che gli va bene, gli va male, cioè no, individualmente vengono naturalmente naturalmente estattati. E certo, prima si chiamava, è certo, collettivo nazionale, ormai, certo, non esiste più, capito? Quindi ormai c'è questo discorso. Dividendo i lavoratori possono imperare meglio. Certo, ma poi naturalmente non solo i lavoratori, perché basta pensare a tutte le immagini che ci vengono ormai anche appunto propagandate attraverso le pubblicità, attraverso i mass media, quelli che sono naturalmente le informazioni che passano anche dai blog, cioè chi più ne ha più ne metta, perché non è che c'è qualche canale dell'informazione che invece è una figata, perché è alternativo e veramente libero, ma perché fondamentalmente si vive questo concetto che non è possibile e non dovrebbe essere più possibile pensare di poter ragionare individualmente. Se qua non c'è questo confronto collettivo, veramente non c'è più ossigeno. Ecco, a me anche questa parola collettiva che noi usiamo sempre, no? Perché non per simpatia rispetto a quelli che erano i collettivi degli anni 70, ma perché collettivamente noi vediamo anche per esempio il nostro lavoro, se non si lavorasse d'equipe, se non si lavorasse tutti insieme, eccetera, noi all'interno per esempio di un ospedale non riusciremmo a fare assolutamente nessun cambiamento, perché ogni turno che viene lavora per conto suo, ogni individuo pensa che naturalmente se dà la farmaco in quel modo, oppure se decide di articolare, che ne so, un tipo di fasciatura oppure di medicazione in un'altra, è molto meglio, non si seguono linee guida condivise che collettivamente si sono scelte. Ma vi rendete conto che tipo anche di offerta che ci sarebbe? Già fa schifo che se non ci fosse questa battaglia almeno di rappresentarsi collettivamente come nucleo di lavoratori, di operatori della salute che stanno naturalmente dentro un servizio, dentro un reparto, veramente proprio non si potrebbe più parlare. E veramente poi le infezioni crociate, le doppie malattie che entri in un modo e esci con doppio dei problemi, il morire di parto, le cose più indecorose che vengono fatte perché ci sono alcune DRG, quindi alcune patologie vengono pagate più di altre e quindi si potenzia naturalmente elevare alcuni organi quando non ci sarebbe necessità di mettere persone poi spesso molto anziane, quindi che si sa già con poca possibilità di vita sotto i ferri, eccetera, eccetera. Ecco, questo aspetto individualista che ci permette poi appunto di potenziare soltanto a volte degli interessi economici, altre volte degli interessi di potere, altre volte solo una cricca mafiosa che però ti tiene soggiogato, e chiaramente una cosa è il bullo e una cosa è naturalmente il gregario, però tutto fondamentale per portare avanti poi questo discorso in cui non viene rispettato appunto l'individuo nella sua complessità, ma viene portato avanti soltanto appunto dei discorsi individualisti, personalistici, che però non rispecchiano quello che potrebbe essere anche la fatica che uno fa nell'essere collettivo, perché è chiaro che il vivere collettivamente ti mette in contraddizione maggiormente, ti mette a dover misurare, a trovare delle mediazioni fra te e l'altro che c'hai di fronte, figuratevi in un gruppo ancora più allargato, sempre più allargato di persone, quindi capendo anche in che forme bisogna naturalmente raggiungere quell'obiettivo che per te è focale, ma forse ce n'è uno prioritario che può racchiudere naturalmente lì un interesse maggiore, che non è, che ne so, io voglio il lampadario, la luce davanti a casa, oppure uno specchio che mi faccia vedere davanti a casa mia le macchine che passano, e casomai c'è una strada che è piena di buche e ci sono, che ne so, una marea di motorini che fanno gli incidenti, è logico che a livello prioritario bisogna prima pareggiare sta minchia di strada per poi riuscire anche a mettere lo specchietto davanti alle singole case. Ecco, insomma, ecco questo sforzo, no, che io vedo sempre più tragicamente ignorato, deve essere invece vissuto, e vale pure per la manifestazione, vale pure per il rispetto di stare in piazza per quella che era una quasi totalità delle persone, rispetto a quelle che possono essere decisioni e prese di posizione, valutazioni, idee, eccetera, che non rispecchiavano naturalmente la volontà di tutti. Quindi il collettivo vuol dire rispettare tutti, pensare, specialmente se si sta in piazza o si sta dentro un quartiere o si sta dentro una scuola, eccetera, quali sono le cose più giuste ma che portano benefici. È chiaro, se arriva il paraculo amico da Polverini oppure De Berlusconi che incomincia a dire che vuole semplicemente e soltanto naturalmente raggiungere un potere maggiore per differenziare i livelli di che ne so, dentro una scuola come si dice, per poter eliminare alcuni studenti che sono quelli più facinorosi, per poter selezionare, per poter naturalmente utilizzare dei livelli di provocazione, di delazione, eccetera, eccetera. È chiaro che quello non è un obiettivo che può essere condiviso, ma soltanto può essere smascherato riproponendo quello che di collettivo può essere riproposto. Ecco, quindi è chiaro che quando si parla di rispetto di idee, eccetera, parliamo di rispetto di idee di chi si è fatto sempre un bucio di culo all'interno di tutte le realtà, vuoi di lavoro, di territorio, di quartiere, di scuola, eccetera, cioè, e continua a farselo e con grande energia e con grande voglia. E non, ripeto, non ci deve essere niente che ci annienta, perché a me, se la polizia mi carica in un certo modo, se c'è chi non mi rispetta all'interno del corteo, se c'è chi naturalmente dentro il mio posto di lavoro cerca di annullarmi, che ne so, facendomi un consiglio di disciplina, cioè, io non mi posso mettere a tacere e né me posso mettere sdraiata. Io più vengo attaccata da tutto questo e più la mia energia, la mia voglia di cambiamento e di trasformazione deve andare avanti, però ripeto, deve andare avanti collettivamente. Quindi questa parola chiave, io penso, la parola collettiva. Anche perché io so, giusto tempo fa pensavamo con degli amici che veramente paradossalmente i momenti più belli e divertenti della nostra vita sono stati proprio quelli in cui abbiamo fatto delle battaglie insieme. E abbiamo detto, ma ti ricordi però che bello quel periodo in cui facevamo la battaglia per la scuola, facevamo la battaglia, che ne so, per il coso delle antenne, facevamo la battaglia per l'orario di lavoro. E veramente dici, guarda come nonostante tutto, nonostante le fatiche, lo stress, il fatto che a casa non ci stavamo mai perché stavamo sempre in mezzo a crescere, a fare le nostre battaglie, poi veramente quelli sono stati i momenti che ci hanno più dato e che noi ci ricordiamo veramente con maggior affetto, no? A proposito di collettività. Certo, poi è chiaro, noi viviamo anche molto del nostro passato, io spero che appunto questa collettività venga poi vissuta nel presente e nel futuro, capito? Poi è chiaro che questo è quello che posso raccontare io, è quello che posso dire io, metto le mie esperienze, ma è giusto che ognuno parli delle proprie esperienze. Io certo non posso dire che posso parlare sulle esperienze che stanno appunto vivendo chi si sente isolato, ormai sconfitto a vita, che non può far altro che vivere dei momenti di rottura perché non c'è altro da costruire. È chiaro, io questa sensazione non ce l'ho avuta neanche negli anni 60, in cui indubbiamente certe situazioni erano tragiche e brutte, però non c'era la situazione politica e forse anche e livelli di annientamento psicologico, no? Con tutti questi livelli di controinformazione che ci stanno, eccetera, eccetera. E forse perché chiaramente, come cicli e ricicli, le onde passano, vanno in su e vanno in giù, e forse dobbiamo essere tutti pronti. Però è giusto che ognuno parli delle proprie esperienze, se le rivendichi, dica appunto fatemi capire, perché me devo solo che capì, però ecco, pretendo anche di essere capita, quindi pretendo che naturalmente quello che è stato un discorso che abbiamo ripreso qua, ma che io ho fatto tranquillamente durante la manifestazione e continuerò a farlo in qualsiasi situazione mi posso provare, possa non essere compreso, possa essere utilizzato in modo strumentale, possano essere veramente appiccicati anatemi contro naturalmente questa invece chiarezza estrema di ciò di chi appunto si rivendica le proprie scelte, le proprie idee, le proprie voglie, le proprie esperienze, i propri ricordi e anche le proprie energie, perché continuo naturalmente a stare in un presente, e anche se il mio futuro sarà sicuramente molto molto più corto e più ridotto di chi naturalmente adesso ho 15, 16, 20 anni, 30 eccetera eccetera, me frega un cazzo, io pure però me lo vivo e me lo vivo con molta emozione, con molto interesse, con molta intensità e più che altro appunto anche con una voglia estrema di essere considerato per quello che poi fai, quello che dici e non per altre interpretazioni del cazzo che secondo me, come non voglio che siano sulla mia testa, non devono stare sulla testa di nessuno. Come al solito, naturalmente, i nostri argomenti di psichiatria, però forse abbiamo parlato anche di aspetti naturalmente di anche psicologici, poi abbiamo parlato di emozioni, abbiamo parlato di fantasia, di creatività, perché poi ecco, era anche un corteo estremamente creativo, perché non dircelo, ci stavano un sacco di spezzoni dove venivano recitate parti, ci sono state cose teatrali fatte appunto dagli occupanti dei vari teatri in tutta Roma, e ho visto una cosa caruccissima sulle borse che cadevano, sulla borsa, no? Avevano messo tante borse una sull'altra, a un certo punto c'era la caduta della borsa con questi che disperati, perché erano tutte borse differenti che non avevano equilibrio, proprio per dimostrare qual è il potere del capitalismo, che certo non è quello della coerenza, della continuità, della costanza, eccetera, per rispettare quelli che sono i bisogni di tutti, ma sono insieme naturalmente di interessi ben precisi, ben individuati e ben individualisti, appunto, messi insieme, che chiaramente non possono avere un equilibrio. Oppure ci sono stati un sacco di slogan, di musica, finché ci siamo riusciti a farlo, logicamente. Però effettivamente anche Piazza Esedra era una strapiazza super cazzola e super colorata, e ripeto, piena di creatività e di fantasia. Eppure questo, cari signori, io non lo cedo a nessuno, né con i colori dei vestiti, perché è vero che Maria Paola dice, non so, il nero è l'assenza dei colori, mentre invece il bianco è l'insieme di tutti. Io mi piace nell'uno o nell'altro, se vi devo dire la verità. A me mi piacciono proprio i colori, anche messi insieme, capito? In cui non devo interpretare, non devo pensare se ci stanno o non ci stanno, ma li vedo. Perché naturalmente anche oltre al nostro agire, quelli che sono naturalmente... Certo, come danno luce alle cose. Certo, perché naturalmente messi insieme mi illuminano, se una cosa è rossa o verde o gialla, eccetera, eccetera, prende naturalmente un aspetto diverso, particolare, di comunicazione in tutto questo. Però ecco, è veramente importante anche vedere questo aspetto qua, e questo forse sicuramente è quello nostro di normale follia, che ci rivendichiamo pure questo e tranquillamente lo riproponiamo in tutte le nostre trasmissioni. Chiudiamo quindi qua, visto che sono già le 6:15, buonanotte, le 4 è quasi un quarto, e vi ricordiamo che naturalmente un orologio elettronico, quindi possiamo dire sì, che sono le 16:11, ecco, cazzo, ma com'è mai stato così precisi, ecco, rivendichiamoci pure questo, perché la tecnologia può essere utilizzata almeno per noi. È nero, però sopra c'è un bel rosso che brilla, meno male, quindi ci hanno garantito che un po' di colori ce lo danno. Ci sentiremo sicuramente lunedì di prossimo, e pensando di poter andare avanti, di chiudere naturalmente con gli argomenti che avevamo fatto, e vi ricordiamo che questo è sempre Normale Follia e questo è sempre Radio Onda Rossa.